Siamo con Mauro Pozzati per l'imminente apertura a Palazzo Fava dedicata a Concetto Pozzati, già dal titolo XXL, magari una taglia che mi andrebbe anche bene. Buongiorno Mauro. Buongiorno, sicuramente era la sua taglia di magliette, di felpe, quando voleva che gliele portassi quando ero a New York, mi diceva mi raccomando XXL, extra extra large. È un titolo ovviamente ironico che abbiamo dato io e mio fratello, anche molto facile perché si intuisce immediatamente che si tratta di lavori di grandi dimensioni, quindi sarà una mostra, è una mostra perché finalmente abbiamo finito di allestirla ieri, dove sono esposti per la prima volta degli inediti, degli ultimi cicli che ha dipinto prima di morire e soprattutto i grandi dittici, che erano quadri che lui faceva alla fine di ogni ciclo pittorico, perché mio padre procedeva per cicli pittorici, e che faceva alla fine come un commiato, come un addio, come proprio anche un abbandono dell'ossessione di quell'oggetto, di quel ciclo, che fosse fiore, orologio, telefono, chiave, e che teneva per sé e non metteva in vendita, un po' perché sono veramente difficili da vendere, mettere nel mercato dei quadri fuori misura, e un po' proprio perché era una sorta anche di memoria che lui aveva di tutti i cicli che aveva dipinto prima, e così si apprestava a dipingere quello nuovo, con quindi una sorta di tabula rasa per poter affrontare con la pittura. Per mio padre la pittura è vita, è eros, è un gesto, è il fare, per cui ha sempre tenuto i pennelli in mano, pur nei momenti magari più sperimentali anche negli anni 70, ma è quindi un grande omaggio alla pittura, come l'ho curata pensando a un Pozzati meno conosciuto, quello più intimo, quello più legato agli affetti, per cui in questa mostra ci sono tutti i suoi affetti, ci siamo noi, i figli, c'è la moglie Roberta col ciclo a lei dedicato, c'è lui, c'è suo padre, c'è sua madre, e quindi davvero è una mostra che fa emergere un Concetto Pozzati più intimo, più sentimentale, anche se poi papà attraverso la pittura raffreddava, poi essendo una pittura di stampo di matrice pop, raffreddava i sentimenti volutamente. Di pop ma con una grande originalità. Facciamolo un identikit, anche se tante cose sono già state portate. Facciamo un identikit dalle origini di questo percorso artistico. Mio padre è figlio d'arte e quindi viene da una famiglia già di pittori. Il nonno è un pittore importante che va in Argentina per fare il grafico pubblicitario, e quando torna poi in Italia, dove mio padre nasce, prende una bella villa a Vo sui Colli Euganei e si dedica esclusivamente alla pittura. E purtroppo papà lo perde giovane, a 12 anni, e quindi quando ancora non sa che farà il pittore, finisce gli studi ad Asiago e poi invece si iscrive all'Istituto d'Arte a Bologna, e da lì nasce, diciamo così, l'incontro anche di nuovo con il padre, con la pittura, tanto che giovanissimo raggiunge lo zio, il fratello di mio nonno, Seppo Severo Pozzati, un importantissimo cartellonista che è a Parigi, e da lì decide poi di abbandonare la grafica pubblicitaria di darsi alla pittura, tanto che abbandonerà anche l'Accademia di Belle Arti dopo un anno, perché già fa il pittore e già espone. Ha avuto una fortuna immediata. All'inizio apparteneva al ciclo informale, che era il clima che a Bologna ovviamente in quegli anni si respirava. Quindi il Pozzati giovane è un Pozzati non iconico, ma totalmente informale. Dopodiché c'è un passaggio importantissimo, anni 63-64, di cui c'è qui in mostra un bellissimo esempio, un quadro che non si vede più dalla mostra di Parma del 68, che è il passaggio dall'informale all'organico, e quindi dove si cominciano a vedere delle forme organiche e dove cominciano a entrare i primi segnali, il primo eco della pop che sta arrivando, tanto che papà parteciperà alla famosissima Biennale del 64, quella che ha portato tutti gli americani nel 64, la Biennale di Venezia, così alla ribalta. Certo, quindi il percorso in mostra riprende questi cicli. Allora, il percorso in mostra è un percorso non cronologico assolutamente, e l'ho proprio pensato ragionando con la sala, con lo spazio. È uno spazio troppo importante questo di Palazzo Fava. In primis per gli affreschi, ovviamente dei, certo, Carracci, di Cesi, di Albani, degli allievi di Carracci, ma anche perché è proprio importante a livello architettonico. Sono bellissimi i soffitti in legno, ci sono dei camini dove ci sono degli specchi, per cui ho ragionato, scardinando la cronologia, ragionando proprio come se i pittori a distanza si potessero parlare, e quindi per mio padre non esisteva la pittura dell'antico, la pittura del contemporaneo, guardava sempre la tradizione con gli occhi del nuovo, e quindi questo è un omaggio anche al fatto che papà pensava che la pittura avesse gli occhi e che la pittura sapesse sempre di più del suo autore, creando un armonico contrasto tra le epoche anche. E alla fine invece anch'io pensavo che il contrasto venisse fuori, invece in realtà si dialogano perfettamente, perché proprio ho ragionato sul recupero di certe pennellate, sui colori, sull'arredamento anche per esempio del pavimento. Il cicco dei fiori per esempio l'ho voluto collocare in una stanza dove c'è un bellissimo pavimento con dei fiori, quindi insomma alla fine in realtà tutto torna. È più armonico che contrasto. Esatto, e quindi meno pozzatiano, perché mio padre era invece bastian contrario, polemico per natura. Grande appassionato di sport, io l'ho conosciuto in quanto certo. Ex cestista. Anche noi. Un anche caro figli. Saluto a Jacopo, tra esatto, l'altro. Che arriverà tra poco, siamo stati tutti cestisti, perché in qualche modo papà indirettamente, perché non ci obbligava mai a fare nulla, siamo sempre stati educati alla libertà di pensiero e alla libertà delle proprie passioni, ma alla fine io ho giocato a basket, mio fratello ha giocato a basket evidentemente, è c'è passato anche questo temperamento. Certo, quante opere in mostra? Qui è difficile contarle, nel certo. Senso bisogna stabilire se il dittico sono due o uno, e poi c'è un lavoro nella sala superiore, perché ci sono anche esposti in mostra i disegni e le opere su carta, e anche questo è molto importante, c'è un lavoro di 301 disegni, e quindi sono 301 o uno, comunque contando uno una cinquantina di opere di grandi dimensioni.